E siamo pronti a iniziare. Eccoci qua con un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast italiano dedicato ai giochi da tavola e condotto da Claudio e Pietro di Area Games Forlì. Claudio, sei in linea? Claudio Sì, è in linea. sono qua. Bene, siamo pronti a iniziare con questo episodio molto vicino alle feste natalizie e a darvi consigli sui giochi che magari potreste regalare per Natale a amici e parenti, ricordandovi però che se volete ordinare da internet bisogna fare in fretta perché si intaseranno gli uffici postali Sì, ben presto. già molti siti che vendono questo genere di giochi hanno lasciato messaggi con scritto che i vari corrieri possono fare ritardi proprio per questi motivi, quindi già si fa sentire il periodo adesso, anche Già. perché comunque siamo già a metà del mese, più non vero male. Tra l'altro io sto ancora aspettando un pacco che ho comprato durante il Black Friday, quindi figurati, sono già 2 settimane. Comunque, torniamo alla trasmissione e iniziamo parlando un secondo del torneo di Smash Up che si è svolto venerdì scorso, anzi, quando andrà in onda la puntata 2 venerdì fa, presso Area Games Forlì, la nostra associazione ludoteca aperta a tutti. Abbiamo Allora, avuto il torneo e sì. Claudio, che è organizzatore e arbitro, illustraci il torneo, Allora, la illustraci gli cosa più eventi. divertente del torneo è stato quando sono stati svelati i trofei, i premi. Sono le facce o comunque le conseguenze che hanno portato a tutti quelli che non hanno partecipato al torneo o che comunque non si sono iscritti in tempo. Sì. Allora, c'è da dire che il torneo comprendeva fino a 8 giocatori. Io ho fatto una gran fatica a trovare l'ultimo giocatore, che poi alla fine sei stato tu, in modo molto segreto è stato scelto Sì, questo infatti. Il personaggio qua, fotografo è diventato giocatore, nonché sa giocatore sacrificabile, visto che sono stato eliminato immediatamente dal vincitore del torneo. Però c'è anche da dire che ti è stato spiegato il gioco tipo 10 minuti prima del torneo, quindi. Vabbè, ma è un gioco talmente semplice. Poi lasciamo, c'è stato anche un imprevisto, un giocatore alla fine ha lasciato il suo posto a un altro nuovo giocatore che tra l'altro è arrivato in finale, quindi sono stati un sacco di colpi di scena. Un Sì, altro anche giocatore lei, abbastanza novizio. esatto, anche questa finalista era la sua seconda partita a Smash Up, quindi. Però appunto la rivelazione dei premi. Allora io accuratamente li avevo coperti per rivelarli nel momento in cui sarebbe aperto il torneo, quindi alle 9:30, perché noi ci incontriamo tutti alle 9, quindi una mezz'ora dopo sarebbe iniziato il tutto. A già vederli, il secondo posto era una cosetta, mentre il primo sembrava un televisore dalla forma. Il secondo posto, come giustamente era previsto, non ha dato questo gran lustro. Ma il primo posto, appena è stato svelato, ha rivelato un gioco che era più grosso anche di quanto mi aspettassi io, è più grande della mia stampante, quindi grandezza. Però ne parleremo poi del contenuto della scatola, perché è la solita storia da Daia Monster o giochi con scatole enormi, ma in realtà contengono la metà di quello che contengono. Però comunque si tratta di un giocone, ed era se è uscito Onslaught, cooperativo deck building di Massacro Alieni. Già molti altri podcast o giocatori a tavola ne parlano come uno dei migliori cooperativi usciti negli ultimi periodi. L'ho provato anch'io, molto molto bello, probabilmente lo riproveremo, Io lo proverò probabilmente lo venerdì. vedremo i prossimi venerdì sera spesso adesso, perché comunque il vincitore è un nostro socio che c'è tutte le sere, il vincitore del torneo. E dietro c'era la coppa del vincitore, che vabbè, valeva già un po' meno in confronto alla scatola. E appena ho rivelato il gioco, mi sono arrivate le persone a chiedermi se ho ancora posto nel torneo, tipo, Sì, ho sentito anch'io, è un troppo tardi per iscriversi. Oppure vabbè, sono state esclamazioni un pochino volgari proprio per dire ma è la vacca, porca vacca, tipo una cosa così. E via, beh, si è svolto nel giro di 2 ore come era previsto. Il vincitore del torneo si può dire tranquillamente che le partite in cui era presente lui duravano 4 minuti mentre le altre 10. Oh, io sono durato abbastanza contro di lui, Ok, il secondo giro 3 minuti più. Sì, esatto. Il secondo giro ha vinto praticamente immediatamente. Diciamo che era abbastanza gasato, anche perché poi ha rivelato a fine torneo che voleva comprarselo quel gioco. Sì, ma cavolo, io non avevo speranza di vincere, avevo un mazzo che era ridicolo. Poi spero che anche Il secondo arrivato si è rimasto contento comunque di essere stato infilato all'ultimo in un torneo e aver vinto un gioco da tavolo. Ma sì. Ebbene così. Va bene, adesso passiamo a noi, su. Poi il bello del torneo è che comunque alle 10:30 avevamo già finito, e, cioè è stato intenso ma veloce. E un'ultima cosa, dopo mi hanno chiesto quando sarà il prossimo. Ci sarà un prossimo torneo probabilmente, ma non sarà dello stesso gioco, mi sa. Sarà di War Angel, no, quello c'è stato l'anno scorso. No, Warrenger possiamo lasciarlo anche indietro. Anche perché poi lo vinsi io purtroppo. Sei tu il campione di War Angel. Vabbè. Devi difendere la corona, cioè, almeno una volta ogni 2 anni. In ogni caso vedremo in futuro, magari nel periodo di carnevale o qualcosa di simile, potrebbe uscire qualche altro torneo. Ma adesso passiamo alla nostra analisi dei vari giochi di cui parliamo ogni settimana. Sì, passiamo alla puntata vera e propria. E quindi inizierei io con un gioco breve. Stasera i miei giochi saranno legati da un tema. Sono due filler, giochi molto veloci, legati al folklore giapponese. Allora, il primo dei due è Kodama the Tree Spirits, gli spiriti degli alberi Kodama, che forse molti di voi ricorderanno per i film d'animazione La principessa Mononoke, quei pupazzetti bianchi con i buchi in faccia, ecco sì. I Kodama, che sarebbero appunto gli spiriti protettori degli alberi, nel folklore giapponese, sono i protagonisti di questo gioco, dove noi semplicemente andiamo ad arricchire il nostro albero, facendolo diventare sempre più prospero, per i nostri Kodama. Allora, iniziamo a descrivere il gioco. Praticamente il gioco dura 3 stagioni. In queste 3 stagioni noi dobbiamo fare più punti vittoria possibili. Come si fanno i punti vittoria? Allora, innanzitutto ogni stagione avrà delle caratteristiche, dirà ad esempio che certi simboli valgono come altri o certe cose fanno fare più punti. E infatti i mazzi delle 3 stagioni sono abbastanza grandi, quindi ogni partita avrà ci saranno possibilità di variare, appunto. Poi per il resto, in ogni stagione noi avremo la possibilità di piazzare vari rami sul nostro albero. Quando noi andiamo a piazzare un ramo sul... anzi, scusate. Iniziamo a spiegare come è fatto il gioco. Il gioco è composto da carte. Il tronco del nostro albero è la prima carta con cui partiamo. Il tronco non ha rami e ha il seme di partenza del nostro albero che ci contraddistingue dagli altri giocatori. Uno sarà il giocatore bruco, uno sarà il giocatore lucciola e così via. Questi semi poi torneranno anche nei vari rami e servono appunto per fare punti. Quindi tutti quanti partiamo con un tronco e un seme presente su di esso. Dopodiché, durante il nostro turno, potremo piazzare un ramo tra quelli presenti in uno slot comune che viene rivelato da un mazzo. Quindi, come in giochi tipo Ticket to Ride, c'è questo slot di carte che viene sempre rimpinguato appena una viene presa, da cui possiamo attingere per ampliare il nostro albero. Quindi un'azione delle varie che compongono le stagioni è piazzare un ramo al tronco o a un ramo già esistente. Questo piazzamento semplicemente avviene sovrapponendo la carta o anche accostandola se è possibile, ma tenendo contigui i disegni, quindi la radice del ramo della carta già presente deve attaccarsi al ramo che stiamo aggiungendo. Quindi andremo a creare un vero e proprio albero, accostando le carte o anche sovrapponendole, anche se ci sono delle regole. Ad esempio, non possiamo, sovrapponendo le carte, nascondere dei simboli, o quelli di cui parlavamo prima, i vari semi che fanno fare punti. Questi non possono mai essere coperti e questa è la regola principale dell'aggiungere nuovi rami. Appena aggiungiamo un ramo, noi facciamo punti. I punti sono in base a quanti simboli contigui ci sono, partendo dal tronco, al ramo che abbiamo aggiunto. Ad esempio, aggiungiamo un ramo con la nuvola e abbiamo al tronco che è anch'esso alla nuvola, facciamo 2 punti perché ci sono dalla nostra ultima mossa verso il tronco 2 volte quel simbolo continuo. Se ci fosse stato in mezzo un altro ramo non contenente la nuvola, non avremmo fatto i punti. Cioè, certi rami poi contengono più di un seme, quindi possono fare più catene. Ad esempio, mettendo un ramo che contiene lucciola e nuvola di fianco a un ramo anch'esso con lucciola e nuvola e un tronco con nuvola, faremo 3 punti per le nuvole e 2 punti per le lucciole. Perché poi dovremmo comunque differenziare l'albero e non fare un enorme lungo ramo di 10 carte? Perché non possiamo mai con una mossa fare più di 10 punti. Quindi a un certo punto saremo costretti per forza di cose a creare nuovi rami. Anche perché altrimenti faremo semplicemente questo unico ramo contenente lo stesso seme all'infinito. Inoltre, perché un'altra cosa che contraddistingue il gioco per fare punti è che ognuno di noi inizierà la partita con 4 carte Kodama e alla fine di ogni stagione ne giocheremo uno per fare i punti riportati dalla sua condizione, quindi uno non verrà giocato durante la partita. E questi Kodama a volte fanno fare punti, ad esempio, per avere più rami estesi possibile dal tronco, per fare un esempio. Quindi sostanzialmente nel gioco noi faremo punti ogni volta che piazziamo un ramo e creando le catene di simboli e ogni volta che a fine stagione giochiamo un Kodama dalla mano, questo ci dirà quanti punti facciamo in base alla composizione del nostro albero. Il gioco è tutto qui. La componentistica è semplicemente composta dalle carte, tronco che sono un po' più grandi e le carte stagione e le carte ramo che sono più piccole. Un Kodama di legno per segnalare il giocatore di turno e alcuni token a forma di Kodama per abbellire l'albero del vincitore, perché appunto nel libretto viene detto che il vincitore a fine partita può abbellire il suo albero con i Kodama che scelgono il suo perché è più bello e mandare la foto poi su Twitter o nei vari social della casa di produzione che poi li ritwitterà e così via. E quindi questo è Kodama, un gioco tra l'altro recente di quest'anno del 2016, uscito mi sembra a primavera più o meno, della Action Phase Game, che in Italia purtroppo è reperibile soltanto attraverso siti internet. È difficile, molto difficile trovarlo nei negozi, a meno che non abbiate un negozio di fiducia che possa ordinarvelo. Molti giochi ci mettono almeno un annetto, un po' di più a arrivare in Italia, purtroppo è così che funziona. Non è detto neanche che arrivino, soprattutto, Sì. anche se questo c'è da dire che Probabilmente sì. ha un buon distributore alle spalle, oltretutto, perché è distribuito dalla Action Phase, dalla Indie Card and Board Games, quelli di Flashpoint, per dire. Beh, Flashpoint, non mi pare che si trovi in italiano. No, però comunque nei negozi sì, italiani, cioè nei Cioè negozi sì, lo troviamo nei specializzati. nostri negozi, ma non è tradotto, No, esatto. no, tradotto no, ma Kodama comunque a livello di testo c'è solo quello sui Kodama per fare punti e sulle stagioni, basta. Ok, Ok. questo era Kodama, che non mi ricordo in questo momento il prezzo, se non sbaglio è sui 25 euro. No, probabilmente 20 o 25, sì. Sì, comunque parliamo di un filler di carte molto, molto veloce. Ed è un gioco che consiglio perché innanzitutto è molto semplice. Poi i disegni molto carini lo rendono appetibile a tutte le età e anche ai non giocatori, anche perché comunque parliamo di un gioco veloce e semplice, che questo è quello che conta. Bene. Kodama costa 20 euro, esatto, ci siamo. Perfetto. Ah, è giusto, scordati di una cosa, il gioco tiene da 2 a 5 giocatori e per mia personale considerazione il numero di giocatori non influisce sulla fluidità del gioco, sia giocare in 2 sia giocare in 5 non cambia molto perché comunque l'unico fastidio che si danno i giocatori, diciamo, è rubarsi le carte nello slot comune. Quindi è come in Ticket to Ride, cioè semplicemente prendo la carta che volevi tu, ma perché il mio turno viene prima di te. Diciamo che non c'è una vera. No, non c'è cioè, non c'è questa, diciamo, competizione Sì. vera e propria. Ognuno praticamente fa i punti per conto suo. Sì, ognuno cerca di fare il suo albero meglio degli altri. L'unica componente in cui ci si mette i bastoni fra le ruote, appunto, è potersi fregare la carta, ma è tutto qui. Quindi, sia che si giochi in 2 che si giochi in 5, a livello di regolamento e fluidità il gioco non cambia. A livello di durata parliamo di pochi minuti in più, perché comunque è velocissimo come gioco. Prendi la carta, la piazzi e calcoli quanti punti hai fatto. Va bene, passiamo dal Giappone a qualcosa di assurdo allora. Allora, prima di passare al mio gioco, spiego perché ho scoperto e giocato a questo gioco. Un nostro socio dell'associazione, a cui piacciono i giochi più stravaganti possibili, tra cui infatti, diciamo, piace più volte rigiocare Winter Tales per cercare, diciamo, di Trovare un senso, no? trovai un senso, ma trovai anche, cioè, modificare le regole più sbagliate e, esatto, renderlo più sensato come gioco. Era molto interessato a un altro titolo che aveva visto in un negozio e un giorno è partito e se è andato a comprare perché è un gioco effettivamente strano. Lo si può vedere anche solo dalla copertina. Il gioco si chiama 011, uscito nel 2011, quindi 2011, no, 2011. Addirittura questo gioco ha vinto il Lucca Games Best Publishing Project nel 2011. È un gioco da 3 a 6 giocatori, ispirato a dei racconti, mi pare. Non Non lo correggimi so se io sbaglio. questo, cioè. Io so solo che dietro c'è un gruppo metal, però non mi ricordo se sono dei racconti o una cosa simile. Comunque, i personaggi del gioco sono un gruppo metal, se non ricordo male. Sì, Ed è infatti è uno di quei giochi, sì. questo posso assicurarlo, questa cosa la sapevo anch'io. È uno di quei giochi che come a Touch of Evil ha nella grafica delle scene fatte da loro, quindi sono praticamente tipo delle fotografie. Sono rappresentati loro nelle carte proprio come nella vita reale, quindi sono ripresi i personaggi veri, sotto forma di costumi che usano. In questo gioco che ha un'ambientazione steampunk, infatti già la copertina presenta uno dei personaggi al centro e dei vari ingranaggi e mappe nello sfondo. Dato che io non conosco la trama dei racconti o da quello da cui è ispirato questo gioco, adesso non ricordo bene, cioè, ovviamente non posso capire il senso della storia del gioco, perché nel gioco bisogna fare un sacco di cose stravaganti, soprattutto per vincere. In più, se si gioca da 4 giocatori in su, mi pare, si aggiunge anche la meccanica del traditore. Che però è strana da dire, perché questo gioco qui non è un cooperativo. Cioè, è un gioco di selezione delle, cioè, diciamo, devi selezionare delle azioni e devi anche dedurre. Quindi è un gioco di investigazione. Simile Cluedo, ma ovviamente con molte più meccaniche. Forse si potrebbe definire un po' più simile a giochi tipo il Mistero dell'Abbazia per il fatto che alcuni indizi sono nelle mani degli altri giocatori, ma tu non li puoi vedere. E è molto strano. Diciamo Ok, che si scusa. potrebbe. Dimmi. Il gruppo metal sono i Therion, che sono Ok. svedesi, e il gioco è basato sul romanzo di Paolo Vallerga, Ecco, infatti mi sembrava fosse ispirato a un che libro tra quello. l'altro Paolo Vallerga mi sembra sia anche l'illustratore, sì, anche l'illustratore del gioco, quindi è sia scrittore che illustratore in questo caso. E stavo dicendo, non è che è proprio un traditore effettivamente, semplicemente se si gioca in più giocatori, un giocatore avrà un obiettivo differente agli altri. Mentre nel gioco base tutti hanno lo stesso obiettivo, ma il primo che lo raggiunge vince, giocando in tanti ci sarà un solo giocatore che ha un obiettivo diverso, che se lui raggiunge quello prima che gli altri abbiano raggiunto il proprio, vince lui. Semplicemente cambia questa meccanica qui. Il gioco non presenta dadi, quindi siete amanti dei dadi, non è il vostro gioco. Presenta però 8 miniature molto strambe, perché sono personaggi assurdi steampunk, tra cui un uomo che ha dietro alla schiena praticamente che cacchio cos'è che aveva dietro? Adesso qui la figura la vedo da davanti. Aveva tipo un forno, una cosa simile. Era una cosa stranissima. Una donna che si aggiusta la testa e altre robe varie, insomma. Allora, nelle figure delle carte non hanno queste pose strane, le miniature invece le hanno. E in più hanno la basetta con il loro simbolo d'appartenenza, perché i personaggi che saranno presenti nel gioco potranno essere selezionati da vari giocatori diversi ogni turno. Quindi non è che un giocatore ha su personaggi, i personaggi sono di tutti. Però ogni turno vanno prenotati. E le miniature non si distinguono molto se non sono dipinte, quindi devi ricorrere ai simbolini che hanno nella basetta per ricordarti bene chi sono, perché sono riportati anche nella plancia di selezione dei personaggi questi simboli, che sono anche l'aiuto principale quando dovrai segnarti i personaggi che stai scoprendo che non c'entrano nulla con il caso, perché come già detto è un gioco di investigazione. Quindi di solito ti segni il simbolo, non il nome, perché hanno dei nomi assurdi e vari titoli strani. Il gioco è ambientato nell'anno 011, quindi è per questo che si chiama così, in un 19° secolo alternativo, e l'obiettivo dei giocatori è trovare l'inscrutabile organo dell'eternità, è un organo a canne, ok? C'è la miniatura anche di questo, che è nascosto a Torino praticamente. Ed è l'unico oggetto che può prevenire il Ragnarok, questa è la trama, ok? Quindi dobbiamo trovare quest'organo a canne, però oltre a questo dobbiamo anche, ogni giocatore, almeno per vincere, prima di averlo trovato, comunque per suonarlo, deve aver composto tutta la melodia, quindi anche devi accumulare dei punti nota musicale, perché devi saperlo suonare, quindi devi aver trovato tutto lo spartito, questo è il concetto. E in più devi anche scoprire tu chi è il prescelto che deve suonare l'organo tra gli 8 personaggi nella plancia. Quindi tu devi sia trovare l'ubicazione dell'organo, comporre tutta la melodia e scoprire chi è il prescelto prima degli altri. L'organo può essere già nella plancia, che tanto se gli altri non sanno chi è il prescelto o non hanno abbastanza note musicali non possono farci nulla. Però devi farlo prima degli altri, anche perché il gioco è composto da un orologio che sono i turni, che ha 12 ore, e se al 12° turno nessuno è riuscito a suonare l'organo con il prescelto, la partita è persa per tutti. E non solo, il giocatore che sa chi è il prescelto, nel turno in cui vuole andare a suonare l'organo, se è già presente l'organo e ha tutte le note musicali, deve dire io so che è prescelto e dire il personaggio che secondo lui è prescelto. Se ha scoperto che è prescelto, ha solo quel turno per spostare la miniatura verso l'organo e vincere la partita. Se ha sbagliato, è eliminato per sempre dal gioco. E ha dato un indizio in più agli altri perché si sa che quel personaggio lì non è prescelto. Quindi non bisogna neanche buttarsi troppo alla fortuna. Il gioco è veramente stravagante. Ogni turno si divide in diverse fasi. Allora, la prima parte del turno è rivelare l'evento di turno. Tu giri questo mazzo di carte che ti dicono cosa succede in questo turno. Che sono cose molto semplici. Esempio, dopo questa fase bisognerà puntare dei soldi. I soldi in questo gioco sono il nostro tempo, attenzione, quindi bisognerà puntare del tempo per decidere l'ordine di turno. E gli eventi si basano sempre su questo. Esempio, può uscire un evento che dice il giocatore che va per secondo questo turno ha 3 passi gratis, il giocatore che va terzo per questo turno guadagna 2 tempo, il giocatore che va primo non guadagna nulla. Quindi la gente inizierà a puntare per avere quei posti. Noi abbiamo un tracciato tempo che parte per tutti a 45 di tempo. Se un giocatore arriva a 0, ha perso la partita. Quindi anche questi soldi che sono il tempo, bisogna cercare di non spenderli tutti. Anche perché dopo dà un vantaggio agli altri, perché vincono sempre gli eventi di inizio turno, che danno sempre dei grandi bonus. Comunque, dopo aver rivelato l'evento, aver fatto l'asta per decidere l'iniziativa, i giocatori che non sono primi prendono un segnalino indizio, che sono segnalini con un punto interrogativo, e li piazzano in delle zone della mappa. La mappa è molto grande, presenta delle locazioni dove possono essere usate come indicazioni per scoprire l'organo, dei veicoli che possono essere usati dai personaggi per spostarsi più velocemente nella mappa, e i personaggi che sono in alcune zone. E questi eventuali indizi. Se un personaggio nella fase movimento finisce su un indizio, lo dà al giocatore che l'ha mosso lì. Gli indizi possono essere usati come jolly per compiere una seconda volta un'azione già fatta. Ok. Dopo che il giocatore 2-3 hanno piazzato gli indizi, il primo giocatore inizia con la fase azione e movimento. Nell'angolo a destra della plancia abbiamo 3 ruote, molto simili a quelle di Caos nel Vecchio Mondo, che però sono fatte di ingranaggi e sono tutte attaccate. Quindi se io muovo una, muovo anche le altre due. Queste 3 ruote rappresentano praticamente le 3 azioni che io posso disporre in questo turno, che sono numero di movimenti, azione di base veicolo o movimenti extra. Quindi sarà una ruota che si farà fare un'azione particolare, che può essere guadagnare una nota musicale nel tracciato della musica, oppure prendere una tessera. Ci sono delle tessere al lato della plancia che possono essere usate per fare azioni extra o scoprire dove si trova l'organo, oppure fare un'azione di ricerca extra. L'azione di ricerca significa andare a cercare i personaggi che non sono i prescelto, che questo non vi ho spiegato come funziona. All'inizio della partita tutti i giocatori avranno in mano un personaggio delle miniature, di quelli che sono nelle miniature. E quindi che sapranno quindi che non hai prescelto. Però ovviamente gli altri non possono vedere la tua mano. Quindi ogni giocatore ne avrà uno in mano. Più se ne sarà uno lasciato fuori, lasciato al lato della plancia che sarà il prescelto coperto. E tutti quelli rimasti fuori saranno un mazzo a parte. Noi con l'azione ricerca possiamo o provare a guardare dalla mano di un avversario un numero di carte a caso pari al numero di azioni di ricerca che stiamo compiendo, oppure un numero di carte a caso prese dal mazzo a parte pari al numero di azioni di ricerca che abbiamo giocato, che possono essere incrementate con i poteri di un personaggio usando degli indizi. Ok? Quindi c'è anche una componente di deduzione. Esatto, anche perché se tu prendi due carte da un giocatore e non sono quelle giuste, se non rifai la stessa azione questo turno, il prossimo turno lui ti potrebbe far rivedere anche quelle due lì. Cioè, Ah, non è che le sì. scegli, tu le peschi, eh. Però se tu non le peschi tutte allo stesso turno, dopo lui le rimescola. E Certo. quindi è più difficile beccare. A meno che quel giocatore non inizi a giocare carte. Perché se gioca carte, la mano inizia a Le diventare sempre cicla, piccola. sì. Esatto, abbiamo 5 carte, di cui 4 sono carte speciali, che ne possiamo giocare una per turno insieme a una tessera volendo, che ti possono dare più 3 movimento, più 3 musica, cose così, sono azioni base. La ruota del movimento invece, che va collegata a questa e all'altra, ti dice quanti passi massimi può fare il personaggio che vuoi muovere questo turno, che può andare da 2 a 5 passi massimo, e l'altra ruota collegata ti ci può dare o 3 movimenti gratuiti, oppure si può concedere l'utilizzo di un certo veicolo che può essere una carovana, un dirigibile o altro. Dopo aver mosso la ruota, o anche prima volendo, sempre in questa fase, il giocatore seleziona uno degli 8 personaggi che sono nella plancia. Ognuno di questi 8 personaggi ha una tessera, dove sono disegnati tutti, che ci fa vedere che poteri hanno se non li selezioniamo. Ad esempio, c'è quello che ti dà subito 2 musica, c'è quello che ti dà subito 2 indagini di base, più gli puoi aggiungere un'indagine extra con la ruota. C'è quello che copia l'abilità di un altro personaggio perché magari è già stato scelto da qualcun altro, e quando un personaggio viene scelto non lo puoi riselezionare tu. Quindi copia l'abilità di un altro personaggio, ma devi pagare 2 tempo per utilizzarlo, e così via. E dopo che l'hai scelto, hai usato il suo potere, lo puoi anche muovere fino al limite che hai selezionato nella plancia. Però attenzione! Ogni scatto di ruota che facciamo in un turno, per selezionare l'azione, massimo può essere fino a 3, ci costa un tempo. E ogni passo che non sia gratuito con il personaggio ci costa un eventuale tempo, quindi se continuiamo a spendere denaro per fare queste azioni. Mentre giocare tessere e giocare carte non ci costa tempo. Dopodiché si passa agli altri giocatori e il turno finisce. Come si fa a scoprire l'organo? Allora, a scoprire il prescelto abbiamo già visto che basta usare l'indagine. Avere lo spartito basta arrivare a 12 in musica, quindi accumulare musica usando poteri, carte o la ruota. Per scoprire l'organo, invece, a fine di ogni turno, il giocatore che è stato il terzo può giocare alcune tessere. Le tessere ovviamente si prendono con la ruota usando dei poteri speciali, non ci sono altri modi per ottenerle. Le tessere possono avere 2 tipi di poteri. O poteri speciali che durante il tuo turno possono farti fare dei movimenti extra, farti ottenere azioni extra o cose simili, oppure rappresentare un luogo. La mappa presenta 4 luoghi. Tu puoi mettere questo luogo vicino a questa rosa dei venti che è nella plancia per indicare che si trova a quella coordinata da quel luogo. Esempio, se io metto la chiesa a nord, vuol dire che l'organo si trova a sud della chiesa. Ok? E quando tutte Ok. queste 4 tessere verranno piazzate, si vedrà qual è la casella della plancia in cui c'è la miniatura dell'organo e verrà messa. Inoltre, il giocatore che mette l'indizio su dove si trova ottiene 2 tempo e un indizio extra, perché ha dato un indizio a tutti. Quindi c'è anche un motivo per farlo. E niente, la condizione di vittoria l'ho spiegata prima, i turni procedono tutti allo stesso modo. Gioco veramente strano, ho giocato 2 partite in 3 giocatori, ho visto che la cosa fondamentale del gioco è rimanere con più tempo degli altri, perché bene o male si arriva sempre tutti a capire che è prescelto allo stesso momento, l'organo è già in campo di solito, e la musica, se non ce l'hai, la guadagni quel turno lì, quello finale, e quindi chi ha più tempo diventa subito primo e va a risolvere la partita. Quindi la cosa fondamentale è stare attenti all'asta in questo gioco, più che altro. In tre giocatori, poi in più giocatori non ho visto come funziona, tiene fino a 6. Stravagante, però molto carino. Il gioco dovrebbe costare intorno a 45-50 euro, credo. Ho visto 45. Però è abbastanza grande la scatola. Le miniature Però sono carine, sì. penso che non sia facilissimo reperirlo perché ormai sono già 5 anni che è uscito e non ha avuto altre ristampe, quindi non so quanto sia facile da reperire. Eh sì, effettivamente. E una partita media dura da un'ora, un'ora e mezza. Ok. Ok, allora parliamo di un ultimo filler veloce prima di chiudere la puntata. E come dicevo prima, torniamo a parlare di Giappone e folklore e parliamo anche feudale, aggiungerei, perché adesso parliamo di Sugi o Sugi, non so come si legga in giapponese. Non so neanche cosa voglia dire Sugi in giapponese. È il nome del bosco, ecco. Allora, appunto, Sugi è ambientato in questa foresta stregata, dove in fondo, nel cuore della foresta, si trova un tempio e ai margini della foresta c'è un gruppo di samurai che vuole arrivare al tempio per pregare. Allora, a inizio partita, noi pescheremo una carta albero genealogico in cui ci dice quali samurai ci fanno fare punti. Avremo un samurai che ci fa fare molti punti, uno medio e uno pochi. I samurai sono dei meeples colorati. Sono 5. 5 meeples Ah sì, mi colorati. ricordo, sono il meeple del fuoco, del ghiaccio, della luce e del veleno. Eh? È nero anche Il nero e il veleno. Luce, oscurità, fuoco, ghiaccio e c'è. E più ce n'è anche uno bianco che invece sta a rappresentare il fantasma. E a questo punto, dicevamo, il campo è composto in questo modo: ci sarà un tiles grande come tre tile piccoli, che sono quelli che compongono il bosco, che sarà la partenza, e un tile grande uguale, che invece sarà la fine dove si trova il tempio. Tra questi due tiles più lunghi ci sono le caselle del bosco ancora coperte da esplorare. Per l'esattezza è una griglia 3x4 che divide i nostri samurai dal tempio. A inizio partita queste tessere che verranno messe casualmente sono coperte e mostrano soltanto gli alberi. Una volta che un samurai ci sarà entrato dentro, invece mostreranno il percorso che spesso e volentieri è ostruito. Allora, praticamente il giocatore di turno giocherà una carta coperta, quindi che solo lui vede. Queste carte andranno a formare una timeline. Quando la timeline arriverà a 5 carte, verranno rivelate, partendo dalla prima che è stata messa, quindi il primo giocatore sarà comunque il primo che vedrà la sua carta in azione. Dopodiché vengono risolte e quindi faranno muovere i vari samurai o i vari samurai nel bosco. Dopodiché il gioco ripartirà normalmente. Quindi un giocatore durante il proprio turno può giocare una carta oppure giocare una carta coperta nella timeline per far muovere i samurai, oppure può giocare le stesse carte come azione, perché le carte raffigurano o il movimento di due samurai, cioè non o, raffigurano il movimento di uno o due samurai e ai margini un'azione. Le carte, se vengono giocate come azione, possono o muovere il fantasma o girare una tessera del bosco e ruotare, non girare, cioè una tessera che è già stata rivelata e che magari ti sta ostruendo il passaggio, noi la possiamo ruotare per aprirci la strada. Oppure possono essere usate per scartare o scambiare carte che gli altri giocatori hanno già messo nella timeline, anche se comunque andiamo a scartare carte alla cieca, quindi non so quanto senso abbia la cosa. Se può essere utile per prendere tempo, magari, o perché abbiamo letto le azioni dell'avversario e siamo a quel punto della partita che sappiamo chi vuole muovere. Allora, il gioco è tutto qui. Semplicemente, cioè, rimane da dire che il fantasma serve per bloccare la via ai samurai o per spaventarli. Quando il fantasma entra in una casella con i samurai, il giocatore che l'ha mosso li sposta dove vuole in una tessera adiacente rivelata. E invece i samurai non possono entrare volontariamente dove c'è il fantasma. Quindi crea anche ostruzione. Oltretutto, mentre i samurai si muovono di una casella per volta, il fantasma si muove in linea retta. Quindi può arrivare da un lato all'altro del bosco in un attimo. Ovviamente non può essere piazzato sul tempio per impedire ai samurai di vincere la partita. Ok, queste sono le regole del gioco. Vediamo un po' le caratteristiche fondamentali. Allora, innanzitutto la difficoltà del gioco, cioè proprio è una meccanica che è un po' come dire, non viene la parola. Adesso te lo dico, Claudio, così mi aiuti. Il fatto che quando giriamo le carte dalla timeline potremmo averle messe male perché non c'è un vero verso per Sì. creare la timeline, Sì, cioè ma non. infatti io quando gioco a quel gioco prima ci riguardo 3 volte su come viene messa la carta. Esatto, non essendoci una plancia magari per darci una È un direzione, po' confusionario. è molto confusionario. Dobbiamo studiare, guardare bene un po' In più, cosa stiamo vorrei aggiungere mettendo. una cosa per l'ultima, perché io giocai un'ultima partita un po' di tempo fa, e dato che io ero l'unico giocatore che doveva portare alla vittoria un certo colore, e gli altri tipo ne avevo rimasto uno però era diverso per tutti, dato che tutti avevano un lumino diverso da portare alla fine per fare il terzo posto, praticamente la partita è durata un'ora in più. Perché non riuscivamo, se continuavamo a spostare indietro e avanti se ci pesti. Ah, giusto, c'è una cosa che non ho detto. La partita termina quando 3 samurai hanno raggiunto il tempio, quindi soltanto 3 riescono ad arrivarci. L'ordine in cui Esatto. arrivano non è importante. E lì che mancava solo l'ultimo era diventato un parapiglia, cioè si andava sempre avanti e indietro all'infinito. Però lì dipende anche dai giocatori da gioco a Sì, gioco. questo gioco, al contrario di Kodama, il numero di giocatori cambia veramente le cose, però comunque tornando a noi, il problema della timeline è che non c'è un vero punto di riferimento per dargli un ordine, una leggibilità anzi, e quindi è molto difficoltoso mettere la carta dal verso che si vuole, perché una carta che fa muovere un samurai magari può essere il samurai blu va su e il samurai viola va giù. E la nostra intenzione è fare andare avanti, andare a nord i samurai blu, però magari l'abbiamo messa al contrario e a quel punto il nostro samurai, quello che volevamo, va indietro, va avanti quello che non ci interessa. Il Anche problema è che se sono disegnate delle frecce, bastava disegnare l'omino colorato e di fianco la freccia piccolina. secondo me invece bisognava mettere semplicemente sulla carta nord, sud, ovest, est, che non è stato fatto. Perché Angoli. comunque, e questo non è stato fatto, perché la carta può essere sia destra e sinistra che nord e sud, è quello il fatto. Cioè può essere essere usata sia per est e ovest che per nord e sud. E quindi la carta è molto più utile in questo modo. E il mazzo ha molte più mosse possibili, ma il gioco diventa confusionario. Non tanto per il nord o sud, che comunque dare un verso sopra e sotto, è che la problematica viene fuori quando il giocatore, il mazziere che va a rivelare le carte della timeline, le capovolge, no? Il nord e sud rimane nord e sud perché le carte vengono capovolte da sinistra verso destra. Sono l'est e l'ovest il problema. E quindi diciamo ci vuole un po' a capire se stai facendo la mossa giusta o no, bisogna leggere un po'. Soprattutto dipende dalla posizione che hai nel tavolo attorno alla plancia, perché magari c'è il giocatore favorito che vede tutto con la prospettiva di come vengono girate le carte, e gli altri invece che devono un po' orientarsi. Detto questo, l'altro, una critica che farei al gioco sono i meeple scelti per fare i samurai, che sono orribili, sono dei meeple alti. Sapendo che esistono meeples come quelli di Samurai Spirit, che sono proprio a forma di samurai, avrei preferito quelli di gran lunga piuttosto che questi obbrobri. Basta comparsi Samurai Spirit e... Sono tutti lo stesso colore in Samurai Spirit. basta Vabbè, dipingere. non è importante questa cosa, è solo una puntualizzazione, però i meeple di questo gioco sono veramente brutti. Infatti, quando l'ho visto in vendita ero per comprare la scatola chiusa, poi ho visto com'erano i meeple e mi era già cambiata, avevo già cambiato idea, ma poi l'ho regalato e ho fatto una buona cosa perché il regalo è piaciuto e il gioco è bello. Sì, Però c'è anche da dire che cioè, i meeple di base sono brutti, bisogna fare le miniature. i meeple sono brutti, su questo siamo d'accordo. E niente, l'altra cosa che volevo dire di Suzy era quello che stavi dicendo tu prima, ovvero il fatto che in base al numero di giocatori, il gioco varia molto. Innanzitutto il gioco è da 2 a 5. Allora, in due giocatori, le probabilità che dei 5 samurai uno non sia di nessuno dei due sono molto alte. E quindi ci saranno, o anche addirittura due samurai possono non essere di nessuno. Questo vuol dire che i due giocatori hanno gli stessi samurai. Quindi non ha molto senso, cambia solo l'ordine in cui vengono mandati. Già. E quindi in due giocatori è molto facile che un samurai non serva a nessuno e si riesca a leggere quali sono quelli che servono all'avversario, perché vedi che uno viene usato in modo assurdo o addirittura non viene mosso. E quindi dopo un po', durante la partita, esclusione riesce a capire chi sta usando l'avversario, a fare ostruzione girandogli le tessere, chiudendogli la strada usando i fantasma. Cosa che a 5 giocatori, ad esempio, è più difficile, perché in 5 tu puoi ostacolare uno, ma non puoi ostacolare altri 3. E poi in 5 giocatori tutti i samurai sono di qualcuno, è impossibile che uno non sia di nessuno. E quindi comunque puoi attaccare i samurai che vuoi, che sai che qualcuno stai danneggiando. Però è Sì, anche infatti vero il che... viola ce l'avevo solo io, me lo spostavano di continuo. Esatto. Quindi questo gioco varia molto se si gioca da 2 a 5. Da 2 diventa più una sfida uno contro uno in cui riesci a fare ost a ostruire. La vittoria a ostruire il gioco dell'avversario e rende più difficile la vittoria. In 5 è un marasma di gente che si muove e vedi magari il tuo samurai che vince perché serve anche all'altro e te l'ha fatto vincere lui, è un po' più incasinato. Però il gioco è molto carino e la meccanica della programmazione della timeline ricordo ovviamente Roborelli in primis e Colt Express in secundis, tanto per citarne due. Ma potremmo citarne tanti altri. E il gioco, la cosa curiosa, è spagnolo di una casa editrice che si chiama GDM Games, che appunto è una casa editrice che nasce con l'intento di dare visibilità e distribuire i giochi di creatori indie. Infatti, non cercano di non proporre giochi già famosi o distribuire giochi famosi, ma di dare spazio agli indie. E quindi accettano prototipi e appunto hanno nel catalogo molti giochi molto particolari come questo. In Italia invece il gioco è distribuito tramite Doppio Gioco, che è una neonata casa di distribuzione che appunto debutta con Sughi e dà l'appoggio di Dragon Store, quindi in la catena di negozi della Raven. Sì. Quindi in Italia il gioco si trova tramite il Dragon Store anche appunto e tra l'altro appunto di base il gioco è spagnolo e si trova solo in Spagna e in Italia tecnicamente. Poi vabbè, l'edizione è multilingua e si trova nei vari siti e quindi in tutta Europa distribuito, però di base a livello di negozi è solo in Spagna e in Italia, e questo è molto curioso come cosa. E Suzy costa dai 20-22 euro, ha un prezzo un po' variabile, forse per la distribuzione non ha il prezzo tondo. Ok. Bene, ok, abbiamo detto 3 giochi, direi di andare verso la chiusura perché si sta facendo una certa. Prima di chiudere, come di consueto, parliamo della nostra associazione, ovvero di Area Games. Allora, cosa abbiamo rimasto di eventi per il 2016? un secondo. Allora, L'hai chiesto. vabbè, dillo con più enfasi. Allora, Abbiamo per una innanzitutto, settimana l'asta dei giochi da tavolo. esatto. Quando questa puntata sarà andata in onda, sarà ora appunto dell'Asta Games, ovvero venerdì 23 dicembre. Ci sarà durante la serata associativa l'asta associativa, dove sarà possibile vendere e comprare giochi da tavolo. Abbiamo già annunciato qualche titolo succoso, Dai, dinne ma qualcuno. cosa? Ve E quali sono? ne dico solo uno, va bene? Ok. Nations, ok? Va bene. Gli altri verranno annunciati poi strada facendo sulla pagina ufficiale. Poi altri eventi particolari. Allora, dopo l'asta, a parte i nostri consueti venerdì sera al President Park, la nostra associazione, dalle 9 gioco libero per tutti, saremo il 28 dicembre a Faenza, per la serata. Accidenti, mi sono perso i riferimenti. Vabbè, mentre cerco i riferimenti, andiamo all'evento successivo e dopo torniamo indietro. Perché il 6 gennaio avremo in associazione ospite Daniele Tascini, autore di Zolkin, Marco Polo e altri giochi da tavolo celebri. Quindi l'autore sarà ospite di Area Games, porterà il suo prototipo, saranno ovviamente proposti i suoi giochi come tavoli e non solo, anche ai giochi normali, non sarà una serata monotematica e sarà possibile far autografare le copie dei giochi a Daniele. Quindi, se volete conoscere l'autore, questa è un'occasione a Forlì, se siete vicini, se siete in Romagna. E sto cercando i riferimenti per i 28, ma non li trovo. Però qui siamo già arrivati al 2017 con l'evento di Da. Tascini, in Vabbè, realtà. Quindi torniamo al 2000. dai, non ti Torniamo. preoccupare. Ne No. riparleremo la prossima puntata, quando magari quell'evento sarà già finito. No, ce l'ho fatta. Ok, eccolo, mercoledì 28 saremo a giocare in circolo, evento organizzato da Ludicamente Brisighella e sarà presso il circolo Prometeo Arci Faenza. Ok, in vicolo Pasolini 6, dalle 8 e un quarto. Sarà un evento dove si giocheranno principalmente giochi, Belli. sì, vabbè, belli. Giochi di un certo livello, cioè non avremo giochi per famiglie o giochi per bambini, saremo Ok. dai Seven Wonders e dagli Stone Age in su, diciamo. Anche se i party game non mancheranno. E quindi, se siete della zona di Faenza, provincia di Ravenna, veniteci a trovare. Ci sarà sia Area Games che Ludicamente Brisighella. Ok, Va bene. ce l'abbiamo fatta, anche questa volta ce Sì. l'abbiamo fatta. Vi ricordiamo di ascoltarci su Radio Big World, condividete il nostro podcast per aumentare il numero di ascoltatori e farci felici. E se volete lasciarci un commento, o qualsiasi cosa, consigli o magari una bella pacca sulla spalla, su Radio Big World, nella pagina del podcast, c'è la possibilità di lasciare commenti. E E anche pacche sulle spalle. pacche sulle spalle, sì, poke. Ricordatevi di cercare l'inscrutabile organo dell'eternità prima che Ragnarok si avventi su Torino. Su Torino, poi. E E ci vediamo la prossima volta. sì, ci sentiamo la prossima settimana con altri giochi per il Capodanno. Sì, no, siamo ancora. Sì. No. No, ci rientriamo ancora prima. No, Cioè, no, sì, oggi che numero. l'episodio andrà in onda il 28, il 26, il prossimo dopo Natale. E allora non ci vediamo il prossimo anno. E quindi sì, no, sì, il 26 è il prossimo anno. Va Va bene, bene, ci vediamo. il prossimo episodio parleremo dei giochi per il Capodanno, ok? Ok. Ok, ora puoi Ciao. salutare. Buonanotte. Buonanotte, buona giornata, buona mattina, dipende da che ora state ascoltando. Ciao!